avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant. Giuseppe, non c'è più religione, vero? No, adesso, a parte le sconcezze, la vera grande... estrema sconcezza che ho visto l'altro giorno, Robert De Niro che piangeva da Maria De Filippi, pensa il cacciatore, piangeva, e il taxi driver, i bravi ragazzi, i muscoli che scorrono sulla sua pelle in Cape Fear, lo psicopatico, piangeva, perché uno era andata lì a raccontargli una cosa di sfiga sentimentale, e lui piangeva, ma gli avranno fatto. Si è dissolto interiormente. Questa mattina, ricordando quello che fu Robert De Niro, immarcescibile esempio delle nostre scellerate giovinezze, vogliamo proporvi come trasmissione il cambio della pelle, le persone che cambiano così radicalmente. Vedere De Niro lì incialtronito, già l'avevo visto abbastanza incialtronito comunque durante il festival di Sanremo, intervistato da Gianni Morandi, già mi sembrava che andava in visibilio per la Bellucci lui, figurati, su quel corpo che sono passate intemperie di ben altra fatta, vedere lì che faceva la bavetta per la Bellucci. È difficile sopravvivere ad aver costruito l'immaginario mondiale, scolpito nei decenni. E poi... Eppure anche lui ha cambiato pelle. Beh, questa mattina vorrei che rifletteste su questo fatto. Quanta gente avete visto radicalmente cambiare pelle? Io l'altro giorno ho avuto una notte insonne perché mi sono accorto su Facebook che era morto mio compagno di classe, dalle medie al ginnasio. Lo avevo come amico di Facebook, ma l'aveva ricercato dopo 35 anni. Ogni tanto ci mandavamo qualche messaggino. Casualmente Facebook, in una sua nuova funzione, dice: vuoi vedere tutti quelli dei tuoi amici che sono nati a Perugia? Sì, vediamolo. E rivedo il mio vecchio amico, dico: ah, me lo ricordavo, fantastico, grande farcitore di merendine con la marmellata del primo della classe con innominabili residui organici, grande sterminatore di preti pedagoghi, me lo ricordo. E leggo dopo un anno che era morto, un anno fa, e quanto mi dispiace, veramente un divertente compagno di classe, tutti accurati commenti su Facebook: ah, sei stato il mio maestro, la guida della mia vita. Mi sono accorto che era diventato un politico, una persona importante, e tutti lo vedevano come un riferimento etico. Caro mio amico, spero che stia meglio di me in questo momento, però aveva cambiato pelle completamente. Quanti vedete ogni giorno cambiare pelle? Io sono per la sovrascrittura totale di ogni idea, di ogni sentimento, di ogni amore, di ogni passione, di ogni amicizia, di ogni affetto, anche di ogni odio, di ogni disprezzo. Quindi non mi scandalizzo per le persone che cambiano. Ho visto persone mutare velocemente, ho visto amori cambiare da un giorno all'altro, ho visto amici diventare nemici, ho visto persone che sembravano essere votate in un patto di assistenza mutua e fedeltà professionale, lavorativa, amicale, cambiare e diventare i peggiori nemici, le serpi più viscide e striscianti. Infatti non mi meraviglio, è lecito per l'essere umano cambiare, è lecito per l'essere umano sovrascrivere, diventare un'altra cosa, un'altra persona, ma questa cosa provoca probabilmente degli shock, ancora nessuno è preparato. Se senti i piagnistei di ogni persona abbandonata, è cambiata improvvisamente, ho visto un'altra persona, quell'integerrimo fedele giglio di candore che avevo accanto, mi sono accorto che era diventato la fossa delle peggiori abiezioni. E beh, grazie a Dio è cambiata, si è sovrascritta. Beh, 800240024, assieme all'infimo Sansonna questa mattina vi daremo degli esempi tratti appunto dallo Star System, visto che De Niro entrambi è luttuosamente colpito, vi faremo sentire e vedere cenni di alcuni grandi attori e attrici che hanno mutevolmente cambiato il loro punto di vista, il loro atteggiamento, il loro modo d'essere. Soltanto italiani, naturalmente. De Niro è un esempio a latere. Fermiamoci al nostro paese, fermiamoci agli esempi che più ci colpiscono da vicino, perché appartengono alla stessa matrice stereotipa a cui apparteniamo anche noi. Quindi vediamo i grandi attori del cinema italiano che hanno cambiato completamente la loro pelle. E indovinate chi sarà il primo ad andarsene? Il primo a piantarci in asso. Il signor Merumeci. Ma se dopo tutto quello che ho fatto fino ad oggi... Come la valutazione della villa, per esempio. Sto parlando dell'ipoteca. Sei riuscito a ottenerla su una base di 800.000 lire. quando tu sai quanto me che vale perlomeno il doppio. Michele, tu leggi troppi libri, fai lavorare troppo la fantasia. È la verità. Per questo hai sempre sconsigliato alla mamma di venderla all'asta. Volevo vederti. Forse devo partire. Ma di un po', cos'è sta storia? Non ti fai vivo per delle settimane. Poi all'improvviso mi telefoni nelle ore di lavoro e sai benissimo che la padrona non vuole. Lascia andare. Ma lascia andare un corno. Da un pezzo che sei cambiato. Dai Giuseppe, no. Qua nessuno avrà riconosciuto la fattispecie mutante di cui vogliamo parlare. Questo è Thomas Milian, cioè l'esempio di un'esistenza non facile. È ancora il Milian sottile, pallido, nevrotico, spirituale. Il ragazzo che viene dalla Cuba, suo padre il generale si suicida davanti a lui quando aveva 12 anni. E un trauma terribile. E lui lascia e la famiglia arriva all'Actor Studio e sulla scia di James Dean diventa appunto questo attore contorto. Conosce Cocteau e Menotti, arriva al Festival di Spoleto e viene catturato dal cinema intellettuale italiano, dei Bolognini, dei Pasolini. Lui c'è in una scena della Ricotta, è un legionario ossigenato al bordo della croce, insomma, questa vita accolto dall'intelligenza romana. Io mi ricordo, avevo conosciuto Laura Betti a casa sua e c'era una sua, lei vestita, cioè, dipinta come una Madonna pop, e mi disse: questo l'ha fatto Thomas Milian. Era un artista. Com'era bello. Quindi c'è questo suo passaggio in questa fase delicata, quasi amletica. Qui abbiamo ascoltato un pezzo degli Indifferenti in cui lui fa il borghese moraviano della borghesia romana. Quindi fascista. Galleggiava perfettamente nell'humus di quegli anni, fatti di riflessioni sociali, fatti di pensiero d'avanguardia, fatta di rimpacciucchiamenti di cose che venivano dall'estero. Insomma, erano gli anni in cui lui era un attore impegnato. Un po' assomigliava nel famoso film Totò gli esistenzialisti, quando Totò incontra gli esistenzialisti, quei signori pallidi, vestiti di nero, sempre sul ciglio di un precipizio, sempre con l'animo in mano, sempre con lo sguardo perduto, degli Amleto degli anni 60, qualcosa del genere. Però lui era disincantato rispetto a questo, perché lo doppiamo, lo diceva, io non ci capivo niente, la gente si congratulava come: ah, lei è un attore impegnato. Però a un certo punto decide di dare una pinnata, una virata alla sua vita e diventerà celebre e famoso nell'immaginario di tutti per questo. Che mi dà il portafoglio? Quale portafoglio? Quello che io ho messo in saccoccia. Tacci tu. È stato un lavoretto straordinario. Domani è la festa di mamma mia. Meno male che c'è l'indirizzo, così domani io posso rimandare. A maresciallo. E se io lo rimanda, io che mi pio? Te vino a pizza. Dammi. Te l'avevo detto che mi serviva la tua macchina per un colpo da mezzo miliardo, no? Oh, Giulio, non avrei mica fatto scemate. No, ho ammazzato solo 3 uomini, 2 donne e una bambina. Senti. Che? Scherzi a parte. Se ti dicessi che... sì, che ho ammazzato qualcuno, tu che faresti? Andrei alla polizia. Non ci credo. Ma è dritto filato. Figurati, sono stata lì per denunciarti anche per la macchina. Lascia stare il giornale, ti ho detto. Ai, ai, ai. Che dolor, che pena. Sonnato da un grido di dolore senza amore, tra lenzuola di seta bagnate di sudore amaro. Ecco, qua abbiamo questo fantastico doppio salto mortale, questo divincolarsi fra la pelle d'ermonnezza e la pelle non so di quale altra espressività sublime. Nel frattempo c'era stato il suo essere cangasero, cioè eroe terzomondista dei western politicizzati che andavano molto in voga negli anni 60, poi passa a fare l'eroe, cioè sostituisce il cavallo con la motocicletta e diventa eroe di film come Milano Odia, La polizia non può sparare, anticipando e preconizzando il poliziottesco, anticipando molto come intensità l'Al Pacino di Scarface, e poi arriva appunto a questa invenzione che lo renderà ultra popolare, ma lo ingabbierà anche in questo mito sempre giovane, ultra coatto del Monnezza, del commissario Giraldi. Insomma, invece l'ultimo pezzo che abbiamo sentito rimarrà putrefatto nel Monnezza, a parte un ultimo colpo di rene. Sì, lui con questa zazzera finta applicata alla testa, questi occhi bistrati, questo barbone, questa tuta da meccanico, doppiato da Ferruccio Amendola, quindi sono comunque creature ibride. Sono cortocircuiti che fra voce e corpo. In realtà sono dei Frankenstein, diciamo la verità, perché è un corpo in espressività con la voce di un altro che conferisce il vero carattere, però. E invece abbiamo sentito quest'ultimo pezzo, questa poesia con la sua voce, con ancora l'accento cubano rimasto inveterato, che ha un fascino forte. Lui appunto è visibile su YouTube con queste poesie che ne raccontano l'esistenza tormentata e travagliata. Sentiamo Vincenzo. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi ha fatto evocare un'esperienza di vita vissuta come professionista. ho avuto l'opportunità di crescere professionalmente anche verso grandi gruppi, e in quel momento mi sono girato e il compagno di vita professionale che mi ero scelto, proprio perché andando verso i grandi gruppi c'era bisogno di seguire comunque diversamente le attività precedenti verso i miei clienti, mi sono girato e mi sono venuti meno 25 anni di lavoro proprio sfumati. E beh, che ha fatto questo suo girarsi, quale conseguenze ha avuto? Assolutamente, siamo arrivati anche a mangiare magari la sera a te coi biscotti, perché da un stile di vita con fatturato proprio ci si è trovati nell'arco di pochissimi mesi, per non dire dalla sera al mattino, dal 2005 in avanti. Lei ha cambiato pelle per una botta di sfortuna professionale, ecco, per questo. Sì, la cosa più grave è stata proprio vedere il cambiamento di pelle nella piccola città da parte degli altri soggetti che erano deputati anche a decidere, i vari arbitri, piuttosto che, non dico i giudici, perché non c'è stato un giudizio. Ah, beh, certo, quando uno viene accarezzato dall'ala nera della sfiga, la gente lo schizza, gli amici scompaiono, le solidarietà svaniscono, improvvisamente sente un isolato. E il cambiamento che osserviamo negli altri è dovuto al fatto che gli altri vedono su di noi una sorta di alone sinistro dal quale non vogliono essere contaminati. È molto comprensibile. Il sbaglio era tutta invidia, perché poi si sono ripetute le possibilità di vantaggio, e in realtà era soltanto invidia, ma l'invidia ha creato un disastro psicofisico e sociale, non solo su di me, ma sulla mia famiglia, su tutto l'entourage. Perché... In bocca al lupo, Salvatore. Sì, buongiorno. Lei che cambiamento di pelle ha assistito, è stato testimone, ha vissuto sulla sua stessa pelle mutante? Ma in realtà io, diciamo, volevo fare anch'io parlare a livello cinematografico, per esempio, di Diego Abatantuono, che ha cambiato pelle, che l'abbiamo visto fare il Terroncello, poi ha cambiato, ma noi lo ricorderemo sempre come Terroncello. Lo stesso Thomas Millian, che era Ermornezza, prima però era appunto un attore drammatico, ma ricorderemo solo come attore drammatico. E Woody Allen... Beh, secondo, molti lo ricordano solo come Ermornezza, dipende sì, anche sì, da... Sì, da... sì, come Ermornezza, sì. Woody Allen, che ha iniziato facendo ridere, poi ha cominciato a fare film seri, ma tutti ricordiamo i vari... E adesso finisce per stritolare le gonadi in ogni film, comunque, certo, è chiaro. Sì. Quindi forse ci piacciono più le persone, diciamo, quando sono gli attori che fanno ridere, quindi le persone che ci fanno ridere, che sono giocosi, e quindi li vogliamo così e vogliamo tutte le persone così. Quando poi magari esprimono veramente il loro talento, la loro, diciamo, professionalità, come Woody Allen quando ha fatto Interiors, Abatantuono quando ha cominciato a fare i film con Salvatores, ci piacciono un po' meno, ma in realtà magari loro... Diciamo che il vero sverginamento drammatico di Abatantuono l'ha fatto Pupi Avati. Sì. Con Regalo di Natale. Regalo di Natale, è la prima volta che siamo rimasti come il Terruccello, che ha una storia drammatica, non ci sembrava vero. Però visto che lei l'ha evocato, le daremo modo di ascoltarlo. Spappari, uomini di inaudita violenza, di inaudita ferocia, figli di Dio Odino, io vi dico, vostro re, che questa volta i romani hanno tirato troppo la corta. E quindi io vi dico che chi la fa, l'aspetti, è chiaro? Chiaro! Senta, io conosco abbastanza bene la sua situazione finanziaria e so benissimo che lei non può permettersi di giocare oltre quello che sta perdendo. Come non posso permetterlo, perché? Senza nessuna garanzia. Lei a questo tavolo non può continuare a giocare. Come senza nessuna garanzia, scusi, ma ho uno dei migliori cinema di Milano, loro lo sanno tutti. Lei conferma quanto il signore dice di possedere? È chiaro che confermo, certo. Certo che confermo, poi lo sanno tutti. È nel cuore di Milano, no? Bene, allora mi scusi, possiamo continuare. Continuiamo. 2 milioni, 10 milioni, no. Ecco, abbiamo sentito velocemente il passaggio di Diego Abatantuono, abbiamo visto adesso ospite tutti i salotti televisivi per lanciare appunto il suo nuovo film, quindi anche lui ha cercato quasi di scrollarsi di dosso questo passato, per lui è un passato imbarazzante. Ricordo i numeri 800240024, intanto stiamo parlando del cambiamento di pelle, delle persone che erano in una maniera sono diventate un'altra maniera. Per esemplificarlo attraverso emblemi a tutti noti, scegliamo la storia del cinema nazionale, gli attori che passano da ruoli completamente contrastanti rispetto a quello per cui li ricordiamo di più. Parliamo di Abate Antuono. Appunto, milanese del Giambellino di origini garganiche, era l'Ur meridionale, gigantesco, con questi occhi di bragia, questa zazzera enorme, questi baffoni, insomma, e riesce a vivere di grande successo in quel periodo con questi film. Poi di colpo il successo svanisce perché c'è l'usura. Lui era il meridionale che simulava di essere del nord, parlando un milanese in paraticcio. Un pastiche geniale che però conteneva anche delle perle, come mi ricordo, diceva tu torna al tuo piccolo monto antico, no? Citava Fogazzaro parlando questo linguaggio appunto da periferia, quindi era un qualcosa anche di molto era sottile. Eccezionale veramente, era il primo film, mi sembra. Sì, eccezionale veramente, il Rust del quartiere, tutta questa serie di film che hanno usurato anche cliché. Lui si è trovato a un certo punto con i soldi che hanno incassato molto i produttori, ma non lui, a non avere più nulla da fare, e viene contattato da Pupi Avati, si ravvia i capelli all'indietro e assume questo tono più dolente dimesso, che era legato anche alla sua vita molto, e quindi dà una forte intensità al personaggio di giocatore che è tradito dagli amici. Adesso è un momento su cui veramente vorrei fare una pausa per prendere le distanze. Sapevo sarebbe arrivato questo momento, infatti ci eravamo preparati con l'apposito contributo audio, però speravamo di non doverlo usare. Perché? Perché non ci sembrava carino, sembrava fuori posto, sembrava voler sparare per forza sulla Croce Rossa. Però, ahimè, l'ascoltatore Benedetto ci prende per i capelli e ci costringe a parlarne. Buonasera, sono Diana Bruni, si ricorda di me? Ci siamo conosciuti a Roma, al party per la poetessa. Avevo cominciato un discorso. Sono a Venezia, ho ereditato un piccolo appartamento. Vorrei riarredarlo. Ah, e per questo ha pensato a me? Beh, sì, mi aveva detto che... Ha fatto benissimo. Vediamoci. Come? Dove? Quando? Stasera stessa, da me, Palazzo Lorenzoni, a due passi dall'imbarcadero di Carezzoni. Sì, conosco Venezia, so dov'è. La resistenza è danneggiata? No, un arnese vecchio, ma integro. Si ricorda dove era la presa? Mi sembra dietro la vasca da bagno. Per infilare la spina l'assassino sarebbe dovuto entrare nella vasca o montare sul bordo. Ma non credo che un uomo robusto come l'autista gliel'avrebbe lasciato fare. A meno che non fosse già tramortito. Ah, domani mattina il medico legale manderà il referto. Dobbiamo tornare... Diciamo fra questi due passaggi epocali della carriera artistica di Claudio Accolci ci sono dei punti in comune, soprattutto nell'inserimento, nella presa e via dicendo. Benedetto, buongiorno. Buongiorno. A lei il commento. Beh, niente, volevo solamente ricordare questo perché mi sembra un cambiamento particolarmente significativo in un'attrice che è stata per un certo periodo sex symbol nei film niente meno che di Tinto Bass, che è diventata una missionaria addirittura. Beh, questa diciamo è stata una grazia che lei ha ricevuto. Adesso su questo non vorrei ironizzare. Certo, per tutti noi è stato un tuffo al cuore, perché in quell'appartamento di Venezia in cui viene invitata in quel film Così fan tutte, accade ciò che fu l'apoteosi nella celebrazione Callipigia di Claudia Cole. E certo, la grazia soffia ovunque, e ci fa piacere per la sua salvezza il fatto che oggi sia missionaria, però e la nostra... solo mi fa piacere, io addirittura la invidio, perché l'uomo in crisi che sono, questa fortuna non l'ho avuta, e senza ironia lo dico con molta... No, anche io non dico ironia, però siccome serietà. Non rinnego la mia natura umana, passionale, e limitata e bestiale, lo dico con tanta nostalgia di quell'altra Claudia Cole. Giuseppe Sansone. La voce flautata che aveva in Così fan tutte era particolarmente funzionale alla scena dove appunto è alle prese col Branciaroli, Donatien che parla con la voce di Tinto Brass, e appunto accade. Invece il pezzo che abbiamo ascoltato dopo è un pezzo della tragica fiction Linda il Brigadiere, in cui lei trascinava il povero Manfredi come padre in queste indagini, appunto sempre con questa vocina molto esile. Però già era fuori ruolo, già diciamo era divisa, su una via di transumanza verso la salvezza. Successo di divise che ingorga la televisione italiana. Beh, si imponeva già un rigore, diciamo già era l'idea della catarsi rispetto alla... con richiami alla poliziotta, sì, della... il congiungimento more pecorum in cui la celebrò Tinto Brass, naturalmente già indossando una divisa già pensava che in realtà lei era destinata ad altre cose. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0 800 24 0024. Stiamo parlando delle grandi metamorfosi, dei cambiamenti epocali nella vita di un essere umano. Per farlo prendiamo ispirazione da personaggi noti, soprattutto nel cinema, che hanno cambiato ruolo predominante. Questo è una sorta di emblema, di metafora, ci serve per riflettere poi sui nostri cambiamenti, sui cambiamenti attorno a noi. Quante persone vediamo cambiare completamente? Boh, io ho amiche che improvvisamente si mignottiscono, ragazze con gli occhiali che giravano tranquille, tope di biblioteca, diventa tutt'altra cosa. Signori che improvvisamente vanno in palestra, si levano la pancia, si muscolizzano, si mettono i riporti. Queste cose qua diventano dei Don Giovanni, o viceversa, Don Giovanni impenitenti ti prendono, ti mettono la mano sulla spalla, ti parlano dei massimi sistemi, ex compagne di scorribande che ti fanno discorsi esistenziali, ti recitano mantra buddisti. Succede di tutto, ma ancora di più, la gente diventa crudele, diventa cattiva, o improvvisamente un cattivo assume tratti di umanità insospettabili. Questo accade perché la vita è varia, perché la sovrascrittura di se stessi è un esercizio salutare. Mi suggeriscono negli SMS che anche Terence Hill e Bud Spencer hanno avuto un notevole cambiamento. Poi un altro mi cita un cantante di CCPCP, Ferretti, che ora è mistico e scrive sull'avvenire. Beh, cosa c'è di male? Paolo Brosio l'ho visto, Paolo Brosio, ricordate, dalle dirette di fronte al Palazzo di Giustizia, alle cialtronate televisive di tutti i tipi, con madre, zie, nipoti, complice Fabio Fazio. Infine l'ho visto l'ultima volta portare un bambino malato fra le braccia sulla collina in Međugorje, fare miracoli, quindi è diventato un'altra cosa. Poi andando avanti, Thomas Milan me lo cito, l'abbiamo già detto tutti. Beh, andiamo avanti con qualche ascoltatrice. Francesca. Pronto, ciao, sono Francesca. Lo so. io mi era venuto in mente, mentre parlavi, il fenomeno Lino Banfi. Eh sì, un bel fenomeno. Un fenomeno veramente... Ecco, descrivilo dal tuo punto di vista, poi ne facciamo parlare a Giuseppe Sanzonna, che è un raffinato analista del cinema. Tu come l'hai visto questo cambiamento da il comico che parlava quel barese ostentato, faceva ruoli salaci, dal barbiere gay all'arrapato delle signorine del cinema antidiottria degli anni 70, poi è diventato nonno libero, il nonno impegnato? Cioè, è veramente una cosa per me, forse la vecchiaia, forse, non lo so, è veramente una cosa pazzesca. Quindi quando l'attore comico diventa un attore con velleità di attore impegnato, secondo te è una botta di rincoglionimento, non è un'evoluzione? È una cosa così un po', cioè, non sinceramente... un po' una cosa quasi, non so, grottesca, ecco. La trovi grottesca? Sì. Sentiamo uno stralcio della metamorfosi di Lino Banfi, poi con Giuseppe Sanzonna la commentiamo e integriamo. Io vorrei... Dove state andando voi? Andiamo a goderci gli ultimi attimi di pace. Il mondo sta per finire. Uomo. Però la sera, uomo, vieni sempre a casa mia a sbafacchiare e a mangiare. Tre bistecche alla volta ti fotti. Uomo. Papà, perché me lo tratti così? Perché? Perché mi sta di manico? Non fare così, e se gli viene un trauma? Ma che me ne frega del trauma, uomo? Fermati, no, te lo devo dire, ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle. In senso epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle, va vieni, bene? Lascialo perdere, vieni. Ciao Alice. Ciao Libero. Cos'è che dovrebbe fare? Sto tentando di convincerla a venire a lezioni di tango con me. Bravo, vai, no? E già sei bravo come cantante, sei favoloso. Diventi bravo anche come danzatore. La prossima recita te fanno fa Ergallo Cedrone. Vuoi? È tardi, ciao. Alice, io ero richiestissimo come danzatore invece. Non so se l'avete riconosciuta, l'impareggiabile compagna di Lino Banfi nella precedente versione comica è Gegia, una grande caratterista italiana, che fra l'altro... Gegia divide con me il supermercato, lo sempre alla fila del supermercato, vestita in maniera improbabile, con minigonne, tutte fucsia. Però è lei, Gegia, non la riconosce nessuno, ma è ancora lì. Comunque, negli anni Ottanta, Lino Banfi era il nevrastenico, luttuento, incandescente, erotomane, inventore di questo pastiche preso dalla spettacolo, questo pugliese con le che ha inventato lui, che non esiste da nessuna parte, nessun idioma. Poi è cambiato, forse. Mannaggia la puttena, queste cose qua. Beri, a Bari si dice iso de bar, si dice essere di bar. Beri non esiste, è pura invenzione linguistica, anche molto efficace, con una grande visceralità che è appunto consumata sui palcoscenici della trama spettacolo. Si dava le botte sulla fronte, sì, cioè questa fronte lucida. Poteva questa che rimbombava come uno scaldabagno vuoto, insomma, c'erano appunto anche invenzioni sonore di regia. Secondo me, tornando al discorso dell'ascoltatrice, è invecchiando uno non è che tra l'altro può continuare. Immagina come sarebbe grottesco se io pianto guardando Lino Banfi, lo sai, una volta. Dunque, primo giorno di Naia, mi mandano al car orrendo, un car a Savona, nemmeno esiste più. Arrivo, signorino perugino, abituato alle mollezze di una vita scellerata, mi sbattono in questa caserma orrenda in mezzo al fango. Il primo giorno di libera uscita, prendo il trenino e vado al cinema a Genova. E il film era L'amante al pepe, la moglie al peperoncino, qualcosa del genere, con Lino Banfi. Pianzi tutto il film. Come un lacrima movie. Ogni tanto lo rivedo in qualche rete scellerata, mi viene ancora come da piangere. Come se fosse incompreso, l'hai letto in quel momento. Era la... Beh, comunque appunto, immagino che ti sia adesso alla sua età, appunto, corresse dietro alle fene che facesse, sarebbe comunque grottesco. Sì, lui era il cialtrone attizzato da queste bellissime, classico della commedia italiana scollacciata di quel tempo. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe. Pronto? Eccomi. Sono io? Sì, è lei Giuseppe. Sì, sono io, buongiorno. Identità, maestro. Sono già cambiato pelle in questi 40 secondi. Sì, maestro, buongiorno, come va? Siccome maestro, mi avevano detto che era il terzo, allora aspettavo. Allora, io ho 64 anni e da 18 anni ho sempre lavorato nel settore dell'industria, prima nell'automobile e poi nel mobile. L'automobile, presto dire, le aziende principali. Beh, è rimasto erano più o meno tre. L'automobile al mobile. Sì, le aziende principali erano tre, e poi sono sparite quasi tutte. Adesso una si chiama Chrysler. E ma vada al dunque, perché sennò ci addormentiamo. Dunque, questo che per cose bisogna cambiare pelle, per forza di cose, è la vita che ti porta a mutazioni. Dal punto di vista proprio morfologico, dal punto ma lei cosa è cambiato, scusi, dalla catena di montaggio dell'automobile al montaggio dei cassetti? Io non ho cambiato niente dal punto di vista professionale, ho sempre continuato a esprimere il mio lavoro, ma ho dovuto adeguarmi a quelle che erano le esigenze del settore in cui operavo, prima nell'ufficio tecnico di carrozzeria, poi dopo nel settore del mobile, quindi entrare in contatto con architetti, diversificarsi anche dal punto di vista. Ma lei sia poi un cambiamento, è cambiare lavoro, lei rimane sempre la stessa persona, immagino. No, ci mancherebbe altro. Quando avevo 20 anni ero completamente diverso, ma non era un buon tempone, allegro, simpatico. Ma cercavo di essere un mezzo prete a quei tempi, adesso sono pensi un po'. Parecchio. E adesso cosa è? Adesso sono un pochettino più laico, ho più dimestichezza con la diversificazione e da quando Matteo Caccia... Che vuol dire dimestichezza con la diversificazione? No, per capire. Mi sto diversificando. Cioè, è diventato bisex, no? Per capire qual è il termine. No. Sta germinando un altro sesso. Sto diversificandomi dal punto di vista... Ah, non è più monogamo, finalmente. No, dai. Adesso Matteo Caccia ha lanciato il discorso dei racconti. Pronto? Sì, ma lei cosa fa? Sta tentando in maniera infame di entrare dalla porta di servizio. No, dai, lascia stare. Però il discorso è questo. E adesso scrivo racconti, sono così appassionato e penso che davvero i racconti siano magari sarebbe bello che lei ci leggesse l'incipit di un suo racconto, però ahimè la motosega impedisce questa vertigine per il nostro peccato veramente, peccato. Paola. Pronto? Paola? Paola? Com'era? Era emerso un attimo. Paola? Pronto, buongiorno. La motosega non è più quella di una volta uccideva subito, adesso lascia degli attimi di sopravvivenza. Paola, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia testimonianza. Sì. Allora, due tribunale. Ex due miei ex colleghi, uno pacca sulla spalla, diventato dirigente, aria distaccatissima del lei. Un altro invece, amico di famiglia, diventato dirigente anche lui, del lei, distaccatissimo anche lui. È entrato nel ruolo, come si dice. La prima cosa che fanno un manager, devi entrare nel ruolo, gli si dice. Ultima ciliegina sulla torta, io insegno, un mio ex alunno, poi diventato anche collega. Diventato dirigente anche lui? No. Dopo siamo monotoni, no? Allora? è diventato assessore, guarda caso, anche alla cultura al tempo libero. Potrebbe darle una buona mano invece? Ma no, manco me ne frega niente, scusi il termine. Volutamente mi ignora, mi gira le spalle. Ecco qua. Però lei dovrebbe avere abbastanza esperienza vita per capire quando uno entra in un ruolo con delle responsabilità di gestione sì, può più tenere a conto i rapporti personali, certamente. Anche perché il ruolo impone un distacco, sì. Risponde alle sue azioni, è triste, guardi, ma è così. Sono io che ho chiesto, diamoci del lei, perché lei perché te sei diventato ormai hai un ruolo, come dice lei? Lei immagina un giornale, un collega diventa direttore, assume un ruolo di responsabilità, deve dimenticare l'amico della scrivania vicino, quello con cui faceva le cose assieme, perché richiede la responsabilità, una sorta di diversa gestione dei rapporti personali, ahimè, è come chi sale in alto si deve rendere conto che questo è un rischio da pagare. Giuseppe. C'era un amico di mio zio, il barbiere, che faceva il ladro nella vita, no? Un giorno vinse 2 miliardi a caramba, che fortuna, che la fortuna bacia sempre i meritevoli, e il giorno dopo girava per Torino con la pelliccia, con la moglie, ma impettito, no? E anche mio zio lo guardava con deferenza, cioè anche lì il tocco, certo. Del denaro cambia la maschera, forse la maschera non si può portare. No, questa era a livello al contrario, Totò l'ha classificata come elemento di sfiga, con la morte siamo tutti uguali, ma nella vita diventiamo disuguali, questo crea delle vertigini fantastiche, dei grandi piaceri, e può stare di fare enormi vendette rispetto ai propri pari grado quando si era sfigati, quindi fa parte della vita, non ve la prendete. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé. Pourquoi se séparer? Melog 2.0. La merda del maiala, degli stronzoli nel culo, delle poppe pien di fiscio con gli stronzoli, escan dalle poppe dei budelli, dei vitelli con le cosce della sposa che gli sorte fra le cosce, troppi e seghe dentro i cazzi, troppi cazzi dentro il culo che gli spuntano dalle cosce, che gli tornano dalle gambe. Buongiorno principessa, stanotte t'ho sognata tutta la notte. Santa al cinema, se già avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto. Non penso che a te, principessa, penso sempre a te. E ora... Mamma! Mamma, vedete, il popolo mi porta in carriola senza guidare. Da morire e ridere, siamo in testa. Quanti punti abbiamo oggi, papà? Io penso che Dio ci punirà, Sanson. No, perché... è crudele che andiamo sempre a toccare laddove la catarsi ha trasformato un uomo vigliacco, cattivo, blasfemo, imprecatore come Benigni in Berlinguetti, voglio bene, che la prima volta riesce finalmente a ballare con una donna, gli amici gli fanno uno scherzo crudele, dicono la tua mamma sta per morire, lui fa questa camminata attraverso la steppa toscana imprecando, dice una lunghissima imprecazione che dura 10 minuti, e poi diventa un'altra cosa. Sono cortocircuiti eccessivi per una sola vita, cioè il punk sdrucito, lucignolesco dei primordi, il Benigni, quello appunto di questi primi anni che palpitava viscerale, cede il passo alla monumentalità. Tu pensa che in quel film lui, che adesso parla del canti del paradiso come se fosse avesse frequentato tutta la vita, vende la madre a un sì. Buzzurro, perché ci ha perso le carte, c'ha l'ero, allora adesso mi fai trombare la tua mamma, e lui gli dà la madre. Era un Cipriano Maresco toscano, se vuoi, c'erano queste collisioni, poi passa la monumentalità invece retorica, melensa, stucchevole, appunto eccessiva, smodata. Ecco, tu che sei dell'ambiente, il processo di rimozione di questi passati fantastici è evidente, perché non ne parlano mai. Io amo Benigni per questo suo passaggio. Anche se non apprezzo l'ultimo, se non mi piace l'ultima fase, ma la guardo con divertimento perché conosco la precedente. Ma infatti c'è sicuramente una tenerezza, anche la necessità di rimanere sotto i riflettori, di riciclarsi, di mettersi in gioco, che ha anche delle valenze positive. Ma riciclarsi, secondo me, è brutto, è giusto. È lecito che un artista abbia tutte le metamorfosi possibili e immaginabili, anche scelte che a chi ha l'esprima al tournée, o l'animo fescennino, o il diavolo che ormai ti ha messo la sua stigma sulla testa, danno fastidio, però è così. Beh, però il Benigni iniziale, quello del minestrone, il film di Citti in cui lui vaga con Davoli e Franco Citti, cioè questa forza poetica leggera, viscerale, molto forte, che secondo me poi con la retorica degli ultimi anni ha perso, e questo non gli ha giovato artisticamente. Sentiamo Stefano, velocemente. Pronto, ciao. Sì. Ciao, no, io volevo raccontare un aneddoto, però poi questo discorso su Benigni mi ha portato a dire altre cose. Però vabbè, ti racconto questo aneddoto che può fare anche sorridere, nel senso che con l'avvento di Facebook anch'io sono stato coinvolto in cene di classe. Io ho 35 anni, quindi con i compagni del liceo. Beh, e in questa cena, insomma, c'era un bel addestramento alla fine è alla fase ultima del rincoglionimento, quindi ti consiglio di farlo. Sì, sono già abbastanza ben avviato. Cioè tu vedi l'ombra della morte incipiente sulla faccia dei tuoi compagni di classe e dici: meglio che non mi guardo allo specchio. Esatto, perché io sono, non è che sono esule da queste dinamiche, ovviamente. Però no, per dire, c'era un mio compagno simpaticissimo che era il campione indiscusso nelle gare di Rutti. Beh, cioè tu in ogni classe. C'era in ogni classe, noi avevamo questo fuori classe. E ovviamente in questa cena abbiamo cercato in tutti i modi di convincerlo a rievocare, insomma, i suoi fatti. Ma non era più lo stesso. Non c'è stato verso, non c'è stato verso. Ah, si è vergognato? Ma si è vergognato, sì, probabilmente, lo sai che cosa? Un uomo di 35 anni che comincia a fare rutti mostruosi in un ristorante, probabilmente. Ma forse non ha più nemmeno la capacità. È la valvola dell'esofago. È la valvola dell'esofago che ormai è slabbrata con l'età. Sì, quindi probabilmente, non sì. È più quello di una volta. Rassegnati, rassegnati, cambia tutto. Tu pensa che io nel profilo Facebook di questo amico morto ho ritrovato un altro amico che anche lui era campione, non posso dire di cosa, perché ormai è un notissimo avvocato perugino, ma nello sciorinamento virile sul banco con misurazione, lui batteva sempre tutti. Giuseppe Sanzone. Non l'hai detto, non l'hai voluto dire, insomma, no, non l'ho hai detto, cercato non lo posso di tenerti. No, comunque, forse la tenere la stessa maschera tutta la vita è difficile, anche aderisce alla pelle e la ustiona, quindi è necessario cambiare continuamente. C'è un altro caso che a noi ci ha fatto molto soffrire nel vedere un altro dei miti della nostra scellerata adolescenza cambiare completamente, diventare addirittura un tutore dell'ordine, che addirittura è politicamente corretto, tanto da fare bandiera di pubblicità del proprio figlio omosessuale, cosa giusta, lecita e senz'altro ammirevole, ma vista fatta e compiuta da quello che era la più bieca esposizione e apoteosi della virilità scellerata, ci ha fatto un po' sorridere. Nostra prima notte di nozze è passata. Ecco, guarda, sono le 9. Allora tu passeggi da 8 ore, e per essere precisi a 7 ore e 50 minuti, se vogliamo tenere conto dell'ultima prova. Ho le gambe che mi fanno male. Povero Carlo mio, vieni dai le nucciature. E che ti racconto, le barzellette? Elena, ti giuro, è la prima volta in 20 anni che esercito. Lo so, caro, me lo hai già detto. E io te lo ripeto, e se la cosa non si dovesse risolvere più presto, te lo dirò ancora, perché io sono un uomo, uomo! Ti arriverà una convocazione per un confronto con Salvatore Girlando. Io sono innocente, almeno tu devi credere. Ma come faccio a crederti? Zorzi non mi piace. Non è come pensa lui, Giulia è una persona capace di starmi vicino. Ma secondo te, non cambia Zorzi? Perché? Quando è morto René Ferrer, quanti anni poteva avere? Ha pieno diritto anche Lando Buzzanca di cambiare pelle, però io ricordo che era talmente cosmica l'esaltazione di Lando Buzzanca come eroe irraggiungibile, anzi supereroe irraggiungibile dei nostri palliducci sogni virili adolescenziali, che ci fu anche un fumetto di quelli osceni con le donnine nude degli anni 70 in cui lui interpretava un camionista con la sua faccia, si chiamava Il Montatore. Camuso e Protervo, con questo fisico appunto fallico che emanava testosterone, ha frequentato tutta questa serie di film monotematici, ossessivi, e poi si ritrova nelle fiction recenti invece a fare il padre politically correct di un figlio omosessuale, lo accetta, eccetera. Però è da notare anche il peggioramento della recitazione, imposta sicuramente dall'altro, no? Questo sussurrato che c'è in tutte le fiction. Che non è da lui. Sì, sì, perché è il monotematico anche in tutti i vecchi attori di teatro che devono appunto sussurrare e ansimare per dare drammaticità, intensità a testi ripugnanti. Paolo, buongiorno. Paolo, c'è? Sì, sono Paolo. Niente, voglio portare la testimonianza dell'esigenza mia di cambiare pelle periodicamente, voglio dire, che ne so, ogni 15 anni. Io facevo il parrucchiere. Uno scrub ventennale. Ecco, poi per questioni contingenti, non economiche, ma perché mi stavo in campagna, ho venduto il negozio, ho aperto un maneggio. Poi la mia passione per l'elettronica dopo 15 anni mi ha portato a ideare un dispositivo medicale e quindi ho chiuso il maneggio. E cosa fa questo dispositivo medicale? Analizza la pelle, i nei, eccetera. Quindi anche pelle. Sì, ma con quali competenze? Con quali competenze, scusi, da parrucchiere a cavallaro a costruttore di un delicato meccanismo per analizzare la pelle? Ecco, però quindi immergersi proprio nelle nuove attività, quindi scientemente dici, vabbè, io mi metto in gioco in questa nuova, e questo anche in sentimentalmente, perché ho 5 figli da 3 donne diverse, l'ultimo l'ho avuto... Diciamo ogni fase corrisponde a una gestazione. Ma, per esempio, quanti figli appartengono alla fase da barbiere? Come? Quanti figli ha concepito nella fase che era barbiere? 3. Nella fase cavallaro? 1. E una 1 nella fase elettronica? Fase medicale. Ah, benissimo, vabbè, vedi. Giuseppe, barbiere era più prolifico. Vedi, cambiamenti di pelle comunque migliorano senz'altro la specie. E comunque portano fecondità e grandi risultati. Grazie Giuseppe Sansonna, mi sembra questa sia stata una vera lezione di vita. Questa trasmissione vi consiglio di scaricarla in podcast e tenetela, fatela ascoltare i vostri figli e dite: questa è la carezza di Meloc. Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.